per me è una discarica di velleità. Vorrei che non fosse il fallimento della ricerca del futuro. È come sempre figlia dei propri tempi e quindi è una piscina recintata, artificiale, sterilizzata, in cui spesso bisogna pagare per entrare o conoscere il custode quantomeno. Vorrei che fosse una tela che sogna di squarciarsi. È una Salerno Reggio Calabria. Vorrei che fosse una stanza piena di notte e con dentro una lucciola che gira. È una teleferica. Vorrei che fosse il deserto. È un surf di specchio a nostro uso e consumo e riciclaggio antiecologico, perché tende alla distruzione dell'uomo in quanto sacrificio alla purezza, al Dio. Vorrei che fosse acqua corrente. Ma che cos'è? Che cos'è? È un... Ma sono chiari da sole? Sì, sono chiari da sole. E beh, che vuol dire? Che vuol dire? Agu, non mi domanda tutto a me. È una bellissima bambina con una cicatrice sul volto che quindi distoglie l'attenzione da quello che veramente ha da dire. Vorrei che fosse un albero da frutto che è cresciuto nel suo luogo autoctono. È una cristallizzazione di comportamenti. Vorrei che fosse bastarda. It is something my house is full of. I wish it was a full place without any bounds, without any rules, without any self-consciousness, without any desperation or nostalgia, and without any desire to matter. È qualcosa alla quale non mi sono mai interessato, ma, oppure perché, non c'è abbastanza amore forse? Vorrei che fosse qualcosa che cambia le cose. È una lavatrice. Vorrei che fosse una biblioteca. Io lo immagino come una cosa mitologica, tipo o una fenice o un grifone. Vorrei che fosse come le rovine del World Trade Center. È una discarica. Vorrei che fosse qualcosa che riesco a toccare con mano, qualcosa di fisico che si manifesta unicamente a me, non so perché. È un meccanismo economico. Vorrei che si sforzasse di parlarmi. È una storia. Vorrei che forse è il colore del tramonto. È la rabbia di Calibano che non sa spiegarsi la sua immagine riflessa allo specchio. Vorrei che fosse un pelo più accessibile, se vogliamo. Elia Media. Molto nostivaccio, molto media. Dal 15 di ottobre, dalle 16 alle 20, in piazza Puntoni. www.aeliamedia.org. Io vorrei adesso che Zanzotto ci leggesse lui una sua poesia. Dalla beltà ci legge questa che è Al mondo. Al mondo? Mondo, sì, è buono. Esisti buonamente. Fa che, cerca di, tendi a, dimmi tutto. Ed ecco che io ribaltavo, eludevo. E ogni inclusione era fattiva non meno che ogni esclusione. Su, bravo, esisti. Non accartocciarti in te stesso, in me stesso. Io pensavo che il mondo così concepito, con questo super cadere, super morire, il mondo così fatturato, fosse soltanto un io male sbozzolato, fossi io, indigesto, male fantasticante, male fantasticato, mal pagato, e non tu, bello, non tu, santo e santificato, un po' più in là, da lato, da lato. Fa di ex de ob ecc, eccetera, sistere. E oltre tutte le preposizioni note e ignote, abbi qualche chance, fa buonamente un po', il congegno abbia gioco, su bello, su, su Münchhausen. Ora invece succede il contrario, il regime è un regime democratico, eccetera, eccetera, però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle civiltà dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari, togliendo realtà ai vari modi di essere uomini che l'Italia ha prodotto in modo storicamente molto differenziato. E allora questa acculturazione sta distruggendo in realtà l'Italia, e allora io posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere delle civiltà di consumi che sta distruggendo l'Italia, e questa cosa è avvenuta talmente rapidamente che in fondo non ce ne siamo resi conto, è avvenuto tutto in questi ultimi 5, 6, 7, 10 anni, è stata una specie di incubo in cui abbiamo visto l'Italia intorno a noi distruggere, sparire, adesso risvegliandoci forse da questo incubo e guardandoci intorno ci accorgiamo che non c'è più niente da fare. È l'interpretazione del tempo in cui viviamo. Vorrei che fosse una terapia finita. È una cosa che ci scorre sotto i piedi. Non la sentiamo mai perché abbiamo sempre le scarpe troppo spesse e i tacchi troppo alti. Vorrei che fosse una ragnatela aperta che connette con i suoi fili e con i suoi nodi tante culture, tanti modi di informazione, tanti mezzi per connettere le persone l'una con l'altra. È una rapina, il contatto di cappucciamento. E quello che vorrei che fosse è che fosse ora con la gente.